Con Francesca Corbo di Amnesty International per presentare la rassegna Diritti al Cinema a Roma, Teatro India dal 13 al 27 luglio 2022. Ben trovata. Ciao Federico, buongiorno a tutte e a tutti. Raccontaci. Inizierà mercoledì 13 luglio la rassegna cinematografica sui diritti umani organizzata da Amnesty International Italia e Film Society di Teatro India. Il 13, il 20 e il 27 luglio, presso l'Arena del Teatro India, alle ore 21, parleremo di diritti umani attraverso tre film che affrontano il cambiamento climatico, l'espressione libera di se stessi e la discriminazione. Il 13 luglio proietteremo Now di Jim Rakete, un film sui movimenti giovanili che si mobilitano contro il cambiamento climatico, un film per riflettere su come appunto i cambiamenti climatici siano strettamente legati ai diritti umani. Il secondo appuntamento è il 20 luglio, sempre alle 21, e proietteremo Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Si tratta di un film che racconta una storia in cui l'omosessualità è normalizzata, si va al di là degli stereotipi e non si banalizza. Un film per riflettere su quanto nel nostro paese debbano ancora essere fatti dei passi avanti contro la discriminazione di genere. E saranno con noi Alessandro Guida, uno dei registi, e Gianmarco Saurino, attore del film e testimonial di Amnesty International Italia. L'ultimo appuntamento, il 27 luglio, è Green Book, uno spaccato nell'America della segregazione razziale per parlare appunto di razzismo e discriminazione. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Com'era nata l'idea di questa rassegna? La rassegna nasce in prosecuzione a un'altra rassegna che avevamo fatto qualche anno fa al Teatro Garbatella, poi ci siamo interrotti causa Covid. L'idea è quella di parlare di diritti umani attraverso il cinema. Ci sono tanti film che noi patrociniamo nel corso dell'anno e tanti film che riescono a affrontare le tematiche dei diritti umani, a parlare di tematiche di cui noi ci occupiamo attraverso appunto l'arte e il cinema. Ci hai parlato degli ospiti del secondo appuntamento, ecco, come si articoleranno le serate? A inizio serata ci sarà sempre un'introduzione da parte di Amnesty International e in alcuni casi di ospiti, e poi a seguire ci sarà il film. Ti chiedo anche la scelta dei titoli, com'è stata? Per quanto riguarda Now, il primo documentario, è stata un po' un'esigenza che abbiamo sentito perché si parla tanto di cambiamenti climatici in questo momento, mai come in quest'estate si parla di emergenza climatica, quindi abbiamo sentito il dovere di affrontare questo tema, un tema che per noi è centrale perché è appunto strettamente connesso ai diritti umani. Sappiamo che i cambiamenti climatici minacciano il diritto alla vita, il diritto alla salute, minacciano il diritto all'alloggio, vanno a aumentare quelle che sono le diseguaglianze tra paesi più o meno sviluppati, tra classi ed etnie, tra sessi e tra generazioni. Per quanto riguarda Maschile Singolare, è un film che abbiamo scelto perché tratta la tematica dell'omosessualità in maniera diversa, in maniera possiamo dire normale, ed è quello che vorremmo che succedesse tutti i giorni. Quindi quello che faremo durante la serata della proiezione insieme ad Alessandro e Gianmarco è anche quello di chiedere a chi è in sala di sostenere la nostra petizione per l'approvazione del DDL Zan. Il terzo film invece è Green Book, è un film che abbiamo scelto per la sua bellezza stilistica, ma anche perché parlare di razzismo e discriminazione è qualcosa di sempre attuale, qualcosa che riguarda tutti noi ed è qualcosa all'ordine del giorno. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Sui canali social di Amnesty International e su quelli del Teatro India. Ricordiamo l'appuntamento il 13, 20 e 27 luglio alle 21 al Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman 1. La rassegna Diritti al Cinema, un saluto e un ringraziamento a Francesca Corbo di Amnesty International. A presto! A presto!